Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Benvenuti a Obiettivo Salute Weekend. Apriamo come di consueto con la copertina, che questa settimana è dedicata al vaccino anti-Covid su cui punta il nostro paese. Parliamo quindi del vaccino nato dagli studi dell'Università di Oxford e che, come sappiamo, coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane. Nei giorni scorsi il ministro Speranza, insieme ai ministri della salute di Germania, Francia e Olanda, ha firmato un accordo con la multinazionale farmaceutica AstraZeneca per l'approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi da destinare a tutta la popolazione europea. Naturalmente tante sono le attese nei confronti di questo candidato vaccino, che attualmente tra quelli in corsa risulta essere nella fase più avanzata di sperimentazione. Per questo oggi abbiamo deciso di dedicargli la nostra copertina, che affidiamo al professor Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele e docente all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, che è tornato a trovarci. Professor Clementi, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Professore, esistono varie tipologie di vaccino. Che tipo di vaccino è quello di Oxford che arriverà nel nostro paese? Possiamo fare una sorta di carta d'identità, così ne individuiamo con chiarezza le caratteristiche? Circa 90 vaccini sono stati sviluppati, 90 ricerche nel mondo, su diverse tipologie di vaccino per stimolare l'immunità contro Covid-19. I principali sono di quattro categorie sostanzialmente: vaccini costituiti da virus intero, inattivato o attenuato, oppure da vettori virali che replicano o che non replicano all'interno delle cellule del soggetto vaccinato, di acidi nucleici DNA e RNA, che sono vaccini di ultimissima generazione, e vaccini costituiti da proteine che possono essere o subunità proteiche del virus, frammenti delle proteine virali, oppure sempre frammenti delle proteine virali, però posti al di sopra di false particelle virali che vengono definite virus-like particles, che servono proprio per presentare bene l'antigene al sistema immunitario. E di tutte queste categorie ovviamente c'è stata anche una certa competizione, anzi c'è ancora una certa competizione, lo si legge ogni tanto che gli stati puntano ad avere dei vaccini propri in maniera da essere più autonomi. Più autonomi. Quello su cui molte nazioni europee hanno puntato e questo vaccino che è sviluppato dall'Università di Oxford con il contributo di una società di Pomezia, che è basato su un vettore di adenovirus che non replica una volta entrato nelle cellule, ma presenta dei frammenti di geni del SARS coronavirus. Questi frammenti di geni espressi all'interno delle cellule portano alla immunizzazione del soggetto. È un vaccino innovativo su cui si fa molto affidamento. Ma professor Clementi, al momento ci sono vaccini come quello di Oxford già utilizzati sull'uomo? Non come vaccini. Questo vettore ha già però una lunga sperimentazione come vettore per la terapia genica. Alcuni centri di terapia genica lo usano per veicolare dei geni e farli esprimere all'interno delle cellule, quindi è già stato ampiamente sperimentato, anche se con un altro scopo. Ma questa è anche la dimostrazione di come la ricerca scientifica riesce ad utilizzare tutte le strade per ottenere un risultato efficiente. Professore, ma quanto durerà l'immunità? Questo non lo sappiamo, non lo sappiamo, perché non sappiamo neanche quanto realmente possa durare la immunità dell'infezione naturale, quindi è possibile che anche l'immunità indotta da un vaccino abbia una durata determinata, in questo caso occorrerà ripeterlo. Quale altro dato possiamo aggiungere per completare la nostra carta d'identità del candidato vaccino di Oxford, professor Clementi? Devo dire che la sperimentazione, come giustamente ricordava lei, è abbastanza avanzata, è stata fatta una sperimentazione animale con buoni risultati, è stata iniziata una sperimentazione per la safety, per l'affidabilità, la non tossicità di questo vaccino, e adesso si sta pensando a una sperimentazione clinica. I dati non sono ovviamente completi, perché i dati pubblicizzati, perché molte di queste aziende hanno ovviamente un problema di riservatezza in questo momento. Quindi. Professore, naturalmente sono alte le aspettative nei confronti di questo vaccino. Qual è il suo punto di vista riguardo all'efficacia, alla sicurezza e anche ai tempi? Sì, il mio punto di vista è che certamente questa volta, dopo che nelle altre epidemie da coronavirus, quella del 2003 e quella del 2014, ci siamo fermati con la ricerca, questa volta dobbiamo andare avanti. E dobbiamo andare avanti anche con il vaccino. Questo perché in ogni caso il virus continuerà a circolare, visto che si è diffuso talmente tanto nel mondo che è impensabile che improvvisamente la pandemia decresca a livelli minimi. Quindi il vaccino servirà, ma qualora anche ci fosse una situazione epidemiologica più favorevole, questo vaccino potrà essere la base da mettere nel cassetto per eventuali future necessità. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Le auguro una buona giornata e ci sentiamo presto, perché vorrei che lei tornasse a trovarci per parlare di terapie, di farmaci. Molto volentieri. Allora è fatta, Ma ha detto sì. Grazie, professor Clementi. Buon sabato. Grazie a lei. Bene, adesso noi ci fermiamo e ritorniamo subito dopo insieme, pronti per il nostro allenamento settimanale. Non mancate, iniziate a prepararvi. Fate un po' di stretching. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Obiettivo Salute Weekend. Eccoci pronti per la nostra seduta settimanale di allenamento per affrontare, adeguatamente attrezzati e motivati e competenti, la nuova normalità. In linea con noi è tornata a trovarci la nostra super professoressa, la professoressa Gwendalina Graffinia, che ha condotto tutte queste settimane il nostro allenamento, è direttore del centro Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica, che grazie proprio a un team di psicologi coordinati dalla professoressa Graffinia ha pensato per noi gli allenamenti, che potete trovare settimana dopo settimana sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Un vero e proprio programma che ci aiuta ad affrontare le sfide che questo periodo comporta. Professoressa Graffinia, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Noi siamo con emozione. con emozione, volta. Perché? Ma non ci saluteremo oggi, probabilmente avremo occasione di lavorare ancora insieme, perché ormai, professoressa, come facciamo senza gli esercizi? Perché ci sentiamo di settimana in settimana più preparati. Bene, questo era l'obiettivo, perché come vi ricorderete siamo partiti dall'acronimo della parola engagement, che è un concetto scientifico che in psicologia indica la capacità di essere coinvolti, protagonisti, positivi nel gestire la propria salute e il proprio benessere, e quindi quanto mai ora in queste settimane difficili di convivenza con il coronavirus ne abbiamo proprio bisogno. Certo, abbiamo lavorato sodo, ma anche con grande soddisfazione. Per questo io invito gli amici che non l'hanno ancora fatto di andare sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, di cercare gli esercizi che di settimana in settimana la professoressa Graffini e il suo team ci hanno suggerito. Professoressa, qua siamo arrivati all'ultima lettera. Sì, siamo arrivati alla lettera T, che sembra proprio fatta apposta per essere un ultimo messaggio per il futuro, perché la T sta per trascina, perché dobbiamo tutti diventare un po' dei testimonial di positività e io direi anche testimonial di questo percorso che abbiamo fatto insieme. Per cui per l'esercizio di questa settimana è esattamente quello di diventare trascinatori di qualcheduno. Scegliamo una persona che ci sta cara, una persona che ci sta vicino, una persona particolarmente bisognosa di avere un esempio positivo di reazione alla situazione di difficoltà e testimoniamogli come si può fare per ripartire, perché sapete, educarci tra di noi è la cosa più efficace, anziché soltanto predicare dall'alto dei principi, ma dare il buon esempio, e lo sappiamo, è sicuramente molto importante. Allora diamo anche il buon esempio rispetto ad un approccio positivo da un punto di vista psicologico nella gestione della nostra salute e della nostra qualità di vita. Professoressa Graffini, quindi alleniamo, trasciniamo qualcun altro e anche noi consolidiamo tutto quello che abbiamo imparato, un po' come succedeva a scuola. La ricchezza sta nell'incarnare queste parole chiave, questi principi, e quindi sono sicura che ognuno di noi, ognuno di voi è riuscito ad incarnarli con degli esempi veri. E quindi poter testimoniare questi esempi veri, queste strategie vere che voi stessi avete maturato agli altri, è sicuramente la lezione più preziosa. Quindi non trasciniamoci, trasciniamo un altro. Esatto, in modo positivo, tutti i testimonial. Grazie professoressa Graffini, naturalmente l'esercizio di questa settimana lo trovate sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute con un bellissimo video della professoressa Graffini che ci auguriamo di sentire prestissimo, perché sennò sentiamo la mancanza, prof. Anch'io, quindi a presto. A prestissimo. Allora, diventiamo trascinatori. Insieme supereremo questo periodo che, come dimostrano anche tanti dati di numerose ricerche, ha segnato anche i bambini, anche i più piccoli. Come dimostra una indagine del Gaslini di Genova che commentiamo oggi insieme al professor Lino Nobili, direttore della neuropsichiatria dell'ospedale genovese, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta. Professor Nobili, la vostra indagine evidenzia in modo chiaro che i bambini hanno sofferto durante il lockdown, respirando anche solo l'aria di casa, magari in casa c'erano delle tensioni, naturalmente delle preoccupazioni, i bambini hanno le antenne, riescono a cogliere anche le cose che i genitori non dicono. Assolutamente, sì. Respirano e quindi come non mai hanno respirato nella fase del lockdown, quindi molto legato le loro emozioni e sensazioni di come vivevano le stesse famiglie lo stress dal Covid. Il nostro è stato un questionario che voleva vedere proprio questo, qual era l'impatto sui bambini e le famiglie in quella fase, proprio nella fase acuta del lockdown. E in effetti i bambini ne hanno sofferto molto perché poi i bambini, come diceva, capiscono fortissimamente il linguaggio anche non più di quello degli adulti, delle non parole, quindi quello che noi tecnicamente diciamo la metacomunicazione, ti leggono negli occhi, è inutile raccontare a loro che sei tranquillo e felice, il messaggio, quello vero, lo sentono, anche se poi non sanno bene come esprimerlo e magari il messaggio non è ben decifrabile. Ed è questo forse che spiega anche il motivo per cui noi abbiamo trovato un aumento, per esempio, di quello che disturbi che noi chiamiamo un po' di somatizzazione, no? Quei malesseri che poi sono dal mal di pancia, la sensazione di respirare male, cose che apparentemente sembrano dei fattori organici, ma sotto c'è probabilmente un aspetto più psicologico. Ecco, professor Nobili, mal di pancia, mal di testa, sono sintomi che potrebbero tradire un disagio emotivo. Per i genitori accettarlo è difficile. Sì, è proprio vero, cioè ci capita molto spesso, prendiamo il mal di pancia come esempio, ma ce ne sono tanti altri, spiegare che quel disturbo non deriva tanto dall'aspetto organico, ma che è lato più legato a un fattore più psicologico. Per un genitore questo immediatamente probabilmente mette in atto anche un meccanismo di più di senso di colpa, a parte la paura chiaramente di dire magari il medico non è riuscito a individuare il problema organico e quindi questo che ci può essere, ma in realtà è molto difficile coinvolgerli e fargli capire quanto sia importante anche la componente psicologica e come sia potente, diciamo, il cervello anche su quello che è il nostro corpo, quindi tutto ciò che è psicosomatica e così via. E quindi il lavoro è proprio importante farlo col bambino e col genitore, è il motivo per cui le dicevo adesso abbiamo deciso, anche visto alla luce del nostro risultato del questionario, di aprire questo ambulatorio dedicato a questi particolari disturbi, cercando di affrontarlo proprio in maniera neanche, come si dice, multidisciplinare, insieme. Proprio psicologo, neuropsichiatra, pediatra che valutano questi aspetti insieme, lo discutono immediatamente insieme. Professor Nobili, quali sono i disturbi che un genitore dovrebbe imparare a riconoscere, a leggere, quel disagio che possono tradire un disagio del bambino? Ma sa, adesso in quello che abbiamo visto adesso, naturalmente abbiamo visto un'esplosione del disturbi, tipo l'irritabilità del bambino è esplosa, no? Il bambino sotto i 6 anni durante questa fase di chiusura è esploso, alcuni bambini hanno addirittura ricominciato a fare anche la pipì a letto, magari l'avevano smesso di fare, sì. Senza parlare poi dei disturbi del sonno che sono stati più frequenti, sia nei bambini piccoli sotto i 6 anni che negli adolescenti. Gli adolescenti sono entrati quasi in un jet lag, sfasati, i bambini piccoli hanno cominciato a voler dormire con i genitori, ad avere dei risvegli notturni, turni, quindi il bambino che manifesta la mal di pancia e che poi magari ci accorgiamo che questo mal di pancia non appena fa un qualche cosa che lo diverte non c'è più, chiaramente forse un mal di pancia che va approfondito, non è forse proprio un mal di pancia legato a un disturbo organico come lo stesso la cefalea, quindi secondo me i genitori devono capire che non è colpa loro, perché il problema è che spesso si sentono subito in colpa. I bambini vivono in maniera importante tante manifestazioni, magari anche possono essere interpretate male, e vanno aiutati anche da questo punto di vista, non è una sconfitta per il genitore, anzi purtroppo questo lo dico perché abbiamo casi di bambini che magari passano un anno in giro a fare esami di tutti i generi, anche magari invasivi, e per poi dopo scoprire che è un problema molto più psicologico, ecco. Professor, le cose si mescolano spesso, mescolano assolutamente. Professor Nobili, e la vostra indagine dimostra che le strategie di coping invece aiutano, proteggono. Ma questa è stata una cosa molto, molto, molto bella, nel senso, nelle famiglie che sono state in grado di mettere in moto strategie, che poi sono delle strategie, se volete, anche semplici, perché fare in casa non è che si possano fare tante strategie, ma vuol dire mantenere l'abitudine del gioco, la possibilità di fare un po' di sport, l'appuntamento per quel tipo di attività sociale magari con cui interagisci attraverso il computer, ma con delle altre famiglie, con degli altri bambini che hanno mantenuto dei ritmi, che hanno cercato di mantenere, seppur nello stress, una situazione di, tra virgolette, normalità e con attività anche ludiche, sono quelli che hanno sofferto sicuramente molto meno. E di questo possiamo fare tesoro, professor Nobili, perché possiamo riprendere a giocare con i nostri bambini, a cercare di trasmettere loro dei messaggi positivi, di creare degli appuntamenti, perché tutto questo li aiuta a superare questa fase che anche per loro è stata difficile, ma che insieme riusciremo a superare. Professor Nobili, grazie per essere stato con noi, complimenti. Grazie a voi. Grazie. Le auguro una buonissima giornata, grazie, buon sabato. E noi ci sentiamo domani a mezzogiorno per la tavola della bufala in tavola. Oggi con noi Roberta Frisani in regia alla parte tecnica e come sempre Laura Vanossi che è in assistenza ma anche in redazione. Buona giornata.